Tutto dunque sembrava procedere per il meglio. E non ci sarebbero state complicazioni di sorta nella vita dei due, se non fosse accaduto che il mago, che aveva cercato di ingannare Aladino, rimpiangendo continuamente la lampada perduta, non avesse insistito nei suoi esperimenti per sapere che cosa ne fosse stato del ragazzo, se egli fosse morto davvero nel profondo della caverna. Seppe così che non solo Aladino era vivo, ma possedeva, oltre all'anello, anche la lampada magica. Perciò, pieno di stizza, ripartì alla volta dell'Arabia. Quando vide lo splendido palazzo di Aladino, una rabbiosa invidia prese a tormentarlo. Non volendosi arrendere alla fortuna dell'altro, si travestì da mercante, attese che Aladino accompagnasse il re in un viaggio nei reami vicini, si fece ricevere dalla principessa e, un po' con parole sdolcinate, un po' per magia, la trasse in inganno. Le fece credere, cioè, che la lampada custodita dal suo sposo era vecchia e non valeva nulla. Gliel'avrebbe cambiata con una bella lampada nuova. La principessa, ignara di tutto, accettò. Avuta fra le mani finalmente la lampada magica, il mago ordinò al genio di trasportare il palazzo di Aladino con tutti i suoi abitanti in Africa. E il genio non poté far altro che ubbidire. Non appena tornato dal viaggio, non vedendo più né il palazzo né la principessa, Aladino comprese ciò che era accaduto. Ma non si perse d'animo. Strofinò l'anello che aveva ricevuto tanto tempo prima dal mago e che sempre portava al dito. Rapido apparve il primo genio, quello che lo aveva salvato dalla caverna dove il mago lo aveva rinchiuso. «Riportami subito qui mia moglie e il mio palazzo, ovunque essi siano», gli ordinò Aladino. Gli rispose il genio: «Ogni tuo desiderio per me è un ordine, padrone, ma questo non posso esaudirlo, perché l'incantesimo è stato compiuto dal genio della lampada, che è molto più potente di me». «E allora portami dalla principessa», disse Aladino. In men che non si dica, era già in Africa, nel suo palazzo, al fianco della sua sposa, disperata, in lacrime, perché temeva di dover dire addio per sempre ad Aladino, al padre, al suo paese. La felicità dei due, quando si riabbracciarono, è facile da immaginare. «E adesso», disse Aladino alla principessa, dopo averle confidato la sua lunga avventura con il mago, «ci riprenderemo la lampada». «Ma come?» rispose lei dubbiosa. «È facile. Inviti a cena il mago, che essendo un gran vanitoso si lascerà conquistare dai tuoi complimenti e tu gliene farai tanti». «Io, Aladino, fagli dei complimenti?» «Sì, mia diletta, e lo farai bere tanto. Anzi, per essere più sicuri, metterai del sonnifero nella sua coppa di vino». «Ho capito», sorrise la principessa. Tutto avvenne secondo il previsto. Non appena il mago si addormentò, Aladino, che fino ad allora s'era tenuto nascosto, venne fuori, tolse la lampada dalle mani del mago e la strofinò. Ed ecco apparire il genio. «Tu, genio», comandò Aladino, «porta questo mago dove nessuno lo possa mai più trovare e riporta questo palazzo con tutto ciò che contiene in Arabia». Così avvenne. E in Persia Aladino e la principessa vissero felici a lungo. Potrebbe darsi che a cercarli proprio bene, magari con l'aiuto di qualche genio, si riesca ancora oggi a trovarli là. Lettura di Flori Brown.